Io sono italiana. Io non sono inglese. Io capisco l'inglese. Io non capisco l'americano. Lei è inglese. Lei non è italiana. Lei non capisce l'italiano. Lei capisce l'americano. Lui è americano. Lui non è italiano. Lui capisce l'inglese. Lui non capisce l'italiano.